Allora, adesso cominciamo con la prossima lezione, che viene usata soprattutto per la scoliosi, ma che serve per allineare la colonna vertebrale. Quindi siete sdraiate a terra, supine, e velocemente, visto che l'abbiamo già fatto prima, scannerizzate il vostro appoggio a terra. Come dicevo, è una lezione fatta particolarmente per la scoliosi, ma serve comunque per allineare la colonna vertebrale, e scannerizzate il modo nel quale state appoggiate a terra, partendo soprattutto dal coccige arrivando alla testa. Quindi osservate come è messa la colonna vertebrale, in che parti tocca, in che parti è sollevata. Questa posso andare più velocemente perché lo scanner l'avete già fatto, siete degli addetti, quindi non può restare mezz'ora. E adesso piegate le gambe. C'è qualcuna, Federica, ti ricordi come si fa a piegare le gambe con il minor sforzo possibile? Ok, dall'esterno. Quindi per piegare le gambe con il minor sforzo possibile, ed è importante che le persone lo imparino, magari non le prime lezioni, ma le gambe allungate, ruotate in fuori il piede, per esempio il destro, in modo che tocchi il bordo esterno, strisciate il bordo esterno verso di voi fino ad arrivare a piegare la gamba col ginocchio verso il pavimento, poi puntate il ginocchio al soffitto e appoggiate per terra la pianta. E lo stesso col sinistro. Allora, siete arrivate con le ginocchia piegate e adesso varie volte cominciate col muovere il pube, l'osso pubico proprio, verso la testa. In altre parole, schiacciate la cintura sul pavimento e muovete il pube verso la testa, verso il viso. E ritorno. E vi accorgerete che quando muovete il pube verso il viso, la cintura si schiaccia e di conseguenza il coccige un po' si solleva, anche se il bacino è sempre appoggiato a terra. E continuate, sempre respirando e osservando come fate il movimento, come tenete le mani, le dita, la bocca, com'è il respiro. Ok, adesso lentamente muovete come avete fatto fino ad ora il pube verso il viso, in modo che il coccige si sollevi, e poi sollevate pian piano tutto il bacino e la colonna vertebrale a terra, sollevando il più in alto possibile, staccando, se riuscite, una vertebra dopo l'altra, e poi scendendo, srotolando, appoggiando per quel che potete una vertebra dopo l'altra, anche se noterete che all'inizio le vertebre non scendono una dopo l'altra, ma a blocchetti, a gruppi tutte insieme. E quando continuate a fare questo movimento, osservate se effettivamente il tallone è sotto la perpendicolare che scende dal ginocchio, altrimenti forzate la parte lombare. E osservate quanto alto andate, fin dove riuscite ad arrivare, e se con la testa fate qualcosa. Cosa fa la testa? Si ferma? Si muove? Si muove. Cosa fa? Basta quando ci alziamo con il bacino. Ok, la testa, quando sollevate il bacino, fa sì che il mento si avvicini alla gola E in questo modo, se il mento si avvicina alla gola mentre sollevate il bacino, potete salire di più e far muovere bene anche il collo. La prossima volta vi fermate, allungate le gambe quando siete arrivate e vi riposate un po'. E nell'appoggio osservate se c'è qualche piccolo cambiamento nel modo di appoggiare la terra. Adesso, molto lentamente, ripiegate le gambe come abbiamo fatto prima, ruotando il bordo esterno del piede in fuori, andando ad appoggiare la pianta del piede, a puntare il ginocchio al soffitto. Ed ora sollevate il bacino il più in alto possibile, come avete fatto prima, e lo tenete sollevato. Ed ora, prendendo come punto di partenza questa posizione, lentamente scendete col bacino verso il pavimento fino a sfiorarlo e poi salite verso sinistra. Scendete verso il pavimento e poi salite verso destra. Quindi descrivete un semicerchio verso il basso. E osservate, man mano che fate il movimento, da che parte il movimento viene più fluido e proprio un movimento pendolare verso sinistra, in alto, in basso, verso il pavimento, a destra, in alto, in basso, verso il pavimento, proprio un dondolo, un pendolo, un semicerchio, osservando se respirate e se sentite, permettete al movimento di passare lungo tutta la colonna vertebrale. Osservate se tenete la bocca morbida. Quando avete bisogno di riposo, vi fermate. Quando scendete, non passate dal centro, ma scendete dal lato giù verso il centro, dal lato giù verso il centro. Non ritornate in mezzo ogni volta. E riposate, perché tutta l'ora col bacino sollevato, quindi è un po' pesantuccio. Ed ora, dopo che siete riposate supine, piegate le gambe, sollevate il bacino da terra, come prima, ma questa volta descriviamo il semicerchio verso l'alto, quindi salite il più possibile, dopodiché scendete con l'anca destra a destra, poi salite il più possibile, in mezzo e scendete con l'anca sinistra a sinistra, quindi descrivete il semicerchio opposto dell'altro, quindi la curva è verso il soffitto, mentre prima era verso il pavimento. E anche in questo movimento, piano piano, piano, piano. Osservate cosa coinvolgete fin dove arriva. Come tenete la bocca, se respirate, se riuscite a tenere i glutei e le cosce morbide o se li contraete, fermandovi ogni volta che avete bisogno di una pausa. E vi fermate, vi riposate un po'. Adesso ripiegate le gambe. Riposate, piegate le gambe ed ora uniamo i due semicerchi, quindi sollevate il bacino fin dove potete, lasciando che il mento si avvicini alla gola e muovete il bacino in alto, a sinistra, in basso e a destra e descrivete i due semicerchi osservando se i talloni sono sopra la perpendicolare che scende dalle ginocchia, sotto scusate. Se tenete la pianta del piede ben appoggiata o la spostate, perché se muovete il piede muovete meno l'anca e la schiena. E descrivete tutto quanto il cerchio, un po' in un senso, poi magari vi riposate, poi lo fate nell'altro senso e osservate come partecipa, come viene coinvolto tutto il corpo nel movimento. E vi riposate un po'. E ogni volta che vi riposate, evitate di pensare ai fatti vostri, ma se potete, osservate anche se c'è qualche piccola differenza nel modo nel quale siete appoggiati. Adesso piegate le gambe e come prima sollevate il bacino descrivendo ancora una volta il semicerchio verso il basso, ma questa volta quando descrivete il semicerchio verso il basso staccate come per camminare una volta un piede e una volta l'altro. Appena appena, qualche centimetro, tutto il piede. Non tanto il ginocchio, qualche centimetro, staccate il piede, 2-3 centimetri. E cercate di trovare il modo migliore di farlo senza fatica. Facendo attenzione a come coordinate il movimento del piede con quello del bacino. Non staccatelo tanto, basta 3-4 cm, perché è il movimento di coordinamento del bacino che ci interessa, non tanto che il piede salga. Allora, in che modo il movimento risulta più facile? Staccare il piede sinistro, quando spingo col destro riesce, il contrario Cosa vuol dire quando spingi col destro? no. Allora, quando devo salire a destra con il bacino, così, no? Ah, ok. Quando faccio semicerchio verso destra, Sì. posso Ok, staccare il piede sinistro. Quando invece perfetto. faccio il semicerchio verso sinistra, Fa quindi faticare così, questo non riesco, a dirti. Non riesci, cioè ok. è molto più faticoso. Allora, qui, se tu avessi una allieva che ti dice questo, allora potresti dire fai la stessa cosa, ma facendo l'ampiezza della parte che si muove di meno. Vale a dire, se quando muovi e stacchi il piede destro e vai verso sinistra, il movimento è molto molto piccolo, lo senti bloccato, non forzare il movimento della parte destra in modo da aumentarlo come a sinistra, ma diminuisci per solidarietà l'ampiezza del piede sinistro della gamba sinistra in modo che sia la stessa ampiezza del destro. Mi sono spiegata? Sì, solo nello stacco del piede o anche nell'ampiezza del movimento del Tutto semicerchio? uguale, tutto uguale. L'ideale è che siano simmetrici. In genere, quando una parte non va, evita di forzarla per farla andare come quella che va, ma diminuisci in quella che funziona molto bene, in modo che pian piano quella che non va impari. Ok? Quindi adesso riprovate, piano piano piano. Quindi vi sarete accorte che quando staccate il piede sinistro è più facile se muovete l'anca destra verso il soffitto. Quando staccate il piede destro diventa più facile se muovete l'anca sinistra verso il soffitto. Quindi il movimento pendolare è associato allo stacco del piede collegato all'anca opposta che va in su. Adesso va meglio. Ok, molto lentamente. Va meglio anche perché non senti, non hai il senso del limite fino arriva uno all'altro e quindi anche quello che poverino non ce la fa più col fiatone a camminare può respirare normalmente, quindi si rilassa, va meglio. Questo è il principio. Riposate un po'. Ripiegate le gambe e adesso fate la stessa cosa, ma dalla cintura alla testa tenete torace, colonna vertebrale e testa dritte così come sono, come se foste incollate in quella posizione dalla cintura alla testa. Invece dalla cintura verso il coccige, piano piano fate il movimento che avete fatto prima, ma spostando i piedi una alla volta, dondolando il bacino, come per camminare verso destra. Quindi dalla cintura alla testa state dritti, dalla cintura in basso, spostando un piede alla volta, descrivete una specie di C. E andate verso destra fin dove potete, chiaramente non sarà tanto perché dovete stare dritti dalla cintura in su e quando siete arrivati a destra che non potete, andate più, tornate indietro al centro, vi riposate e lo rifate. Provate. Piano piano sollevate il bacino, Ludondolate a destra e a sinistra, staccando una volta un piede, una volta l'altro e riappoggiandoli tutti e due verso destra, ma non tipo charleston, ma proprio tipo passettini piccoli dei piedi, l'uno accanto all'altro, a destra, a destra. E il movimento è a destra e a sinistra, solo arco a destra e torno, arco a destra e torno? No, no, a destra e a sinistra. Sempre sollevando il piede. Come prima, solo che invece fare uno supposto, i piedi li spostate verso destra, facendo attenzione che però dalla cintura in su siate dritte. Quindi descrivete una specie strana di C. E quindi costringete la colonna vertebrale pian piano a perdere tutto l'orientamento su cosa è dritto o storto. Che torniamo indietro in un colpo solo? Sì, no, no, non in un colpo solo. Sempre come andate verso destra, o una decina di passettini o anche di più, più sono meglio, è lo stesso nel tornare indietro. E ricordate che, come abbiamo detto prima, probabilmente il movimento vi risulterà più facile se quando staccate il piede destro sollevate l'anca a sinistra, se quando staccate il piede sinistro sollevate l'anca a destra. Dai, adesso andiamo a sinistra, torniamo no, a centro. No, no, sempre destra, centro, destra, okay. Destra, centro. Prima si fa tutto a destra in questa lezione e dopo a sinistra e poi entrambe. Piano, piano, piano, dondolando per bene il bacino. E la prossima volta che arrivate al centro, vi fermate, appoggiate il bacino, allungate le gambe e vi riposate. Ok, ripiegate le gambe, camminate verso destra e quando sempre tenendo dritta la colonna vertebrale dalla cintura in su e permettendo invece dalla cintura in giù di descrivere questa C, e quando siete arrivati a destra appoggiate il bacino rimanendo storte e allungate le gambe rimanendo storte. Quindi gambe piegate, sollevate il bacino, dondolate a destra e a sinistra, camminando verso destra. Quando non potete andare oltre, descrivendo col corpo questa specie di C, dalla cintura in giù, allungate le gambe e rimanendo in questa posizione a C, una specie di C, ruotate molto lentamente la testa a destra e a sinistra. Piano, piano, piano. Ricordatevi che less is more, vale a dire più piccolo è il movimento, più percepite. Quindi movimento lento e piccolissimo e man mano vi accorgerete che da una parte la testa di fatto ruota e da una parte invece si inclina un pochino. Il movimento nelle due parti non è uguale. Provate a farci caso e a scoprire da che parte che ruota, da che parte si inclina. E osservate se respirate e se tenete la bocca morbida. La destra si inclina. Guarda per te? A me a sinistra. In genere si ruota in questa posizione, meglio a sinistra, si inclina a destra, ma poi c'è l'abitudine di ognuno. Ok, adesso rimanendo sempre messe a C, quindi storte, piegate le gambe, sollevate il bacino e lentamente ritornate al centro. Quando siete al centro, assorbite il bacino e vi fermate. Assetti. Guarda, batteria scarica. Batteria scarica. E la spina. Perfetto, siete al centro. Ok, siete al centro, vi riposate un po'. E poi di nuovo piegate le gambe, sollevate il bacino e camminando andate verso destra. E quando siete arrivati a destra, lo riappoggiate per terra, rimanendo questa volta con le gambe piegate. Attenzione, e osservate anche quando lo farete fare alle persone, che i piedi non si muovono tipo Charleston, tutta la pianta del piede si staffa, si solleva. E quando arrivate storte a C col bacino appoggiato, i piedi sono larghi come il bacino. Ok, adesso rimanendo in posizione a C, quindi dritte dalla testa alla cintura con la C in basso, lentamente, molto lentamente, dondolate il bacino a destra e a sinistra tenendolo appoggiato per terra. Quindi una volta sollevate l'anca a destra, premete la sinistra, una volta sollevate l'anca a sinistra, premete la destra. Proprio un dondolio, che è quello che fa parte anche del movimento, della lezione dell'orologio pelvico. E osservate se respirate e fin dove sentite arrivare il movimento. Quindi premete il piede destro, si solleva l'anca destra, premete il piede sinistro, si solleva l'anca sinistra. E c'è un dondolio del bacino, tipo mezzaluna, che taglia l'apertura, a destra e a sinistra. E osservate se respirate. Vi fermate, sollevate il bacino e ritornate al centro, lentamente, dondolando le gambe, ricordandovi di sollevare l'anca opposta all'impiede che si stacca, e quando siete arrivate al centro, poggiate piano piano il bacino a terra e allungate le gambe per riposarle. Fa qualcosa di strano. No, adesso è fermata, non lo so, continua a saltare l'immagine. Ah. Vabbè, adesso mi c'è posto, vabbè. E mi sa proprio carico di. No, no. Perché si ingrandiva e forse avevi la mano al centro. No, qua. Magari capita che non ci si accorge, si preme un po', non so. Ma può essere molto negata, mi dispiace, non saranno molto belle, sai, perché sono un po' negata, ma almeno ho un'idea. No, esatto. Bene, sdraiate supine, osservate bene gli appoggi, dopodiché facciamo l'ultimo movimento verso destra. Ok. Ripiegate le gambe, sollevate il bacino come prima, camminate verso destra fino ad arrivare a C, storte a destra col bacino poggiato a terra. No. Piedi lati come il bacino, bacino appoggiato. Appoggiate il bacino sul pavimento. Ed ora, come prima, dondolate il bacino a destra e a sinistra. Ma questa volta facciamo questo, sollevate la parte destra del bacino e quando la riappoggiate un po' più in su verso la spalla destra. Poi sollevate l'anca sinistra e la riappoggiate un po' più in su verso la spalla sinistra. No, i piedi stanno fermi. Poi sollevate l'anca destra e la riappoggiate un po' più in giù verso il piede destro. Poi sollevate l'anca sinistra e la riappoggiate un po' più in giù verso il piede sinistro. Quindi è un continuo andare e tornare nella stessa posizione, muovendo anca e ritorno in alto, anca e ritorno in alto, anca e ritorno in basso, anca e ritorno in basso. È chiaro? Sì. Ok. Osservate se tenete tutta la pianta del piede appoggiata a terra o se staccate il bordo, le dita. Sollevo l'anca destra e riappoggio un po' più in su verso le spalle, l'anca sinistra e riappoggio un po' più in su verso le spalle, l'anca destra e riappoggio un po' più in giù verso i piedi, l'anca sinistra e riappoggio un po' più in giù verso i piedi. Si descrive una specie di otto di movimento rotatorio. Piante e piedi ben appoggiate. Osservate se respirate. Come tenete le mani, le spalle, la bocca. E devo salire lateralmente? Cosa vuol dire? Devo spostarmi, no? No, no, no, no, ti sposti tenendo la parte appoggiata a terra. Solleva l'anca destra, perfetto. Adesso riappoggiala verso la testa. Ok, solleva l'anca sinistra e riappoggiala verso la testa. Ok. Poi solleva l'anca destra e riappoggiala in giù verso il piede. Solleva l'anca sinistra e riappoggiala in giù verso il piede. Quindi c'è il dondolio come prima che abbiamo fatto, solo che quando appoggi, riappoggi prima la parte destra e sinistra verso le spalle e la testa e poi verso i piedi. Ci siamo? Sì, si parla un attimo l'assetto però del busto fermo, possibile? Un pochino sì, però l'importante è che tu non ruoti su te stessa, perché il problema del non tenere il busto fermo è che le persone ruotano attorno a se stesse, e quello non lo voglio, voglio che ci sia la C. Mm. Poi se un po' si perde è ovvio, perché il bacino è attaccato alla colonna che viene tirato di qua e di là. E le ginocchia possono seguire il movimento dei piedi, delle gambe? Allora, l'idea è che... perché non va? Vediamo un po', aspetta. Ok, l'idea è che piedi e ginocchia si muovano il meno possibile. Se tu muovi i piedi su un bordo e l'altro le ginocchia, muovi di meno evidentemente le anche la schiena. Allora, se ci sono persone che hanno problemi anche di schiena, le fai aiutare con ginocchio e piedi, ma altrimenti per muovere e sbloccare di più le anche la schiena è meglio che piedi e ginocchia siano fermi. Ok, allora anche movimenti piccoli. Sì? Sì, sì, sì, sì. Sempre la stessa idea. Meglio piccolo che non grande, senza far passare al meglio il movimento. Dopodiché vi fermate, sollevate il bacino da terra e lentamente camminando, staccando un piede alla volta, ritornate al centro. Quando siete al centro, appoggiate il bacino a terra e allungate le gambe senza aggiustarvi. Vi mettete con le gambe allungate come vi sembra di essere giuste. Sempre il solito discorso, se vi aggiustate, rischiate di tornare nell'assetto naturale vostro. Invece se vi allungate senza metterli a posto, può darsi che sia cambiato qualcosa nell'allineamento della colonna e della schiena. E osservate come state appoggiate a terra la differenza tra un lato e l'altro. Ok, piegate le gambe ed ora cominciamo a sinistra, la stessa cosa, quindi piegate le gambe e cominciate lentamente, sollevando il bacino, a camminare verso sinistra e a ritornare al centro. Dalla cintura in su siete dritte, dalla cintura in giù potete descrivere una C. Poi tornate lentamente, sollevando il bacino, al centro, dondolandolo di qua di là, osservando come viene il movimento in questa direzione. E continuate. Quando siete arrivati al centro, di nuovo staccate il bacino, dopo che siete riposate, camminate a sinistra. E la prossima volta che andate al centro, vi fermate e vi riposate. Ok, piegate le gambe. Camminate verso sinistra, rimanete a sinistra, descrivendo la C, col bacino appoggiato per terra. E quando siete arrivati e avete appoggiato il bacino, allungate le gambe, rimanendo storte a C. Facendo attenzione che dal torace in su siate dritte e dal torace in giù descrivete una C. E adesso in questa posizione lentamente ruotate la testa a destra e a sinistra, un movimento piccolo e lento, tenendo la bocca morbida. Osservando se respirate. Lasciate andare il movimento della testa, piegate le gambe, sollevate il bacino, ritornate al centro, sollevando il bacino, camminando, staccando un piede e quell'altro, e quando siete al centro vi fermate e allungate le gambe. Osservate come sentite gli appoggi a terra. Ora ripiegate le gambe, sollevate il bacino, camminate a sinistra, appoggiate quando siete arrivati a sinistra il bacino a terra. E come abbiamo fatto a destra, una volta che l'avete appoggiato, dondolatelo a destra e a sinistra. Ricordatevi della cintura in su di stare dritte. Bacino appoggiato, piedi come bacino e dondolate il bacino come se fosse una mezzaluna. Premo l'anca a sinistra, sollevo la destra, premo la destra, sollevo la sinistra. E piano, piano, piano, osservando come il bacino si tira dietro il resto del corpo. Come respirate? Ok, vi fermate, sollevate il bacino, tornate al centro, lo appoggiate, allungate le gambe e riposate. Bene. Ripiegate le gambe. Sollevate il bacino. Camminate verso sinistra. Sempre dalla cintura alla testa, la colonna è dritta, appoggiate il bacino a terra, piedi larghi come il bacino, dondolate come abbiamo appena fatto il bacino a destra e a sinistra, ma questa volta come abbiamo fatto a destra, sollevate l'anca destra premendo la sinistra e riappoggiate l'anca destra un po' più in su verso la spalla destra. Poi sollevate l'anca sinistra e appoggiate un po' più in su verso la spalla sinistra. Poi sollevate l'anca destra e appoggiate un po' più in giù verso il piede destro. Poi sollevate l'anca sinistra e appoggiate un po' più in giù verso il piede sinistro. E continuate. Anca destra e sinistra una alla volta, su su, anca destra e sinistra, giù giù. Osservate come tenete la schiena, come respirate, come tenete le dita delle mani, il pollice. Molto spesso le persone contraggono un dito o le dita, il che significa che c'è tensione in qualche parte del corpo, quindi più o meno tutto si rigidisce. Bene, adesso sollevate il bacino e ritornate molto lentamente al centro, lo riappoggiate a terra e allungate le gambe senza sistemarvi, allungate. Come vi vengono? Possono essere dritte o storte, come vi viene adesso? E osservate come vi sentite appoggiate a terra. Ok, ripiegate le gambe. E questa volta andate di seguito a destra e a sinistra, passando dal centro ma senza mai fermare al centro. Quando avete bisogno di riposare, appoggiate il bacino per terra o a destra o a sinistra, immaginando che il centro non esista. Piano, piano, piano, dondolando il bacino, facendo passare il movimento in tutta la colonna. Appoggiando bene tutta la pianta del piede, dita incluse. E la prossima volta che vi fermate al centro, osservate come state appoggiate a terra. Mani morbide, osservate come tende la bocca. La prossima volta arrivate al centro appoggiate il bacino e allungate le gambe. Benissimo, dopo aver camminato a destra, a sinistra, siete tornati al centro, avete tenuto le gambe, osservate come sentite l'appoggio della schiena. Dopodiché, prima di riosservare tutto l'appoggio a terra, piegate le gambe, sollevate il bacino il più in alto possibile, cominciando a muovere per prima il pube, come abbiamo fatto all'inizio, e scendendo lentamente, appoggiando una vertebra alla volta. Osservate se c'è qualche piccola differenza nel fare adesso questo movimento. Osservate come tenete il mento quando salite, quando scendete, come si muove la colonna vertebrale, come si appoggia. Dopodiché vi fermate e allungate le gambe. E osservate quando vi siete fermate con le gambe allungate, come adesso l'allineamento rispetto all'inizio. E poi quando volete, arrotolate su un fianco, vi sedete, vi alzate e osservate come state in piedi. Osservate come state fermi in piedi e poi camminate indietro, prima di camminare in avanti.